Si trattava di una serata nella quale al Baraccano, al centro sociale Baraccano, era stata organizzata la presentazione di un fumetto su Ranelli e appunto di questa presentazione la Bama insieme anche a diversi altri collettivi avevano espresso l'impossibilità di trovare spazio in un quartiere come quello di Santo Stefano per iniziative a marchio fascista come erano, e quindi era una giornata nella quale, a parte lo svolgimento del classico mercoledì all'interno del Caserma Masini, vi era anche la volontà, diciamo così, in forme più o meno creative di andare a togliere questo spazio alla presentazione del fumetto. Dopodiché non è stato fatto nulla se non un dialogo, un ragionamento, delle discussioni insieme a tutte le persone che entravano alla Caserma Masini e giustamente si interrogavano del perché accanto a uno spazio così si poteva legittimare la presenza della presentazione del fumetto su Ranelli, quando alle 6 le forze dell'ordine, nelle innumerevoli camionette che presidiavano il Baraccano, sono scese proprio all'angolo tra via Orfeo e piazza del Baraccano e hanno cascato tutte le persone che stavano entrando o uscendo dalla caserma Masini, in quella che noi da subito abbiamo tenuto a precisare non essere stato affatto uno scontro tra collettivi piuttosto che persone all'interno di Labà e polizia, ma al contrario una vera e propria aggressione a freddo che poi la stessa polizia ha definito carica preventiva, nell'assurdità poi del termine, nei confronti di chi entrava o usciva da quella che era la piazza di Labà. E questo chiaramente ha provocato, a parte numerosi feriti, anche la rabbia da parte delle persone presenti dentro Labà. E a distanza di mesi, come poi avevamo appunto detto, abbiamo deciso di denunciare anche noi per primi la violenza subita, in particolar modo nei confronti di un ragazzo che è uscito, che era all'uscita di Labà e che a causa di una manganellata a freddo ha avuto una prognosi di oltre 60 giorni e un braccio spezzato. Voi non stavate cercando di entrare al Baraccano, ma appunto eravate nel vostro spazio che è lì vicino. Ricordiamo che appunto la sala è di proprietà del quartiere, insomma comunale, ed è stata concessa a queste persone. Da questo punto di vista bisogna dire che c'è una buona notizia, no, rispetto al 28 di giugno, perché quella stanza che è comunale appunto era messa a bando, ma soprattutto era utilizzata diciamo così da Michele Laganà, noto esponente tra l'altro di destra a Bologna, attualmente è stata per fortuna tolta alle mani di chi per anni l'ha dedicata anche a presentazioni di stampo fascista, ma finalmente si è ripulita, diciamo, da questo utilizzo e è diventata invece di nuovo di utilizzo del quartiere, e mi sembra di ricordare che adesso verrà utilizzata da diverse associazioni. Ti chiedo una riflessione più ampia, perché in questi giorni si stanno moltiplicando le manifestazioni, gli episodi di estrema destra nella nostra provincia. Abbiamo avuto intimidazioni a San Pietro in Casale, oggi ne registriamo un'altra da parte di Forza Nuova ad Ozzano, abbiamo avuto il saluto fascista a Marzabotto, abbiamo avuto i tentativi di rifarsi un'immagine anche di queste associazioni di estrema destra attraverso la beneficenza a Budrio, questa onda nera che sembra, come dire, espandersi anche nella nostra provincia. Ma la riflessione non può che, dal mio punto di vista, non può più che concentrarsi nel dire che ora più che mai appunto c'è bisogno di dare importanza, dare valore, dare apertura anche a progetti, no, che nella pratica, oltre che nella teoria e nella discussione, creino forme di accoglienza, di antirazzismo, di mutualismo, di cooperazione, no? In un'ottica che non lasci spazio a razzismo, a discriminazioni, al contrario vada a costruire anche nella semplicità dei progetti parti di società differenti. Penso ad accoglienza degna, penso a tutte le progettualità che non hanno neanche a che fare direttamente con la questione migratoria, ma che affrontano altre questioni che, se affrontate in una chiave appunto accogliente, inclusiva e cooperativa, riescono, no, a dare anche dimensione di un altro modo di fare le cose, di un'altra società che può esserci. E questo era tra l'altro ed è attualmente un po' la caratteristica di Labà, e questo sicuramente crea poi un antidoto, no, anche alle provocazioni o a, diciamo così, le avanzate all'insegna dell'esclusività, del razzismo che rischiano di esserci, e lo reputiamo sicuramente molto, molto importante. Dalla vostra prospettiva, ritenete che le autorità, anche giudiziarie, abbiano colto il problema nella sua gravità, il problema ovviamente dell'avanzata dell'estrema destra? No. Sicuramente non in toto, lo dimostra banalmente il fatto che un'esperienza come quella di Labà non è stata tutelata fino in fondo, un'esperienza che nel concreto dei fatti, nel nella realtà dei fatti creava, appunto, come dicevo prima, antidoti all'avanzata fascista, antidoti al razzismo. E se tu non vai a tutelare queste esperienze cittadine, è chiaro che poi non proteggi la società da queste avanzate, quindi sicuramente molto di più potrebbe essere fatto.